Noi siamo i froci, siamo gli ebrei, palestinesi dell'intifada, siamo barboni lungo la strada, siamo le zecche comuniste, noi siamo anarchici, noi siamo spastici. Onde corte, un giro nell'Europa del sociale. Sporchi ma buoni, che tette in sintesi significa coglioni, noi siamo i negri meridionali. Abbiamo il piacere di avere ospite a Onde Corte per questa seconda puntata di questa nuova striscia Luigi Leonori, presidente di SMES Europa, l'associazione che rappresenta il network europeo che rappresenta i malati mentali e gli homeless. Luigi Leonori, intanto benvenuto in questa striscia. E buonasera anche a voi. E poi niente, ci parli un po' di questa sua associazione, di cosa fate, di quali sono i vostri obiettivi. Io credo farei un accenno iniziale. Sono stato a Roma per 3 anni direttore di un servizio del comune e della Caritas, che era l'ostello della stazione Termini, e in quel periodo, perciò stiamo negli anni 1987, tanti anni fa, molte delle persone che si trovavano per strada associavano al problema sociale di essere senza una casa, senza un alloggio, anche quello sanitario, di avere delle problematiche a volte dichiaratamente di diagnosi psichiatrica. Ed è da lì che è cominciata la mia attenzione a questa doppia problematica della povertà da un lato e della salute mentale dall'altro. Perciò, diciamo, la nostra associazione SMES ha proprio questo senso di mettere insieme, di lavorare all'interfaccia tra il sociale e il sanitario. Perciò cominciamo, diciamo, la riflessione a partire dell'ostello della stazione Termini a Roma, fino a una conferenza che facemmo a Roma nel 1992 su i malati mentali a rischio di barbonismo. Questo era il titolo, ricordo ancora, di quella conferenza. E allora l'associazione in che cosa consiste? Cercare di sensibilizzare sulla problematica della povertà da un lato e della salute mentale dall'altro, sapendo che non è possibile lavorare solo su un settore dimenticando l'altro. Ecco, è un approccio molto originale questa doppia discriminazione, che mi fa pensare subito al 2010 come anno europeo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Voi vi occupate un po' di tutti e due questi aspetti, povertà ed esclusione sociale. Pensa che iniziative come queste, quella dell'anno europeo, possano servire, e se sì, come farle, come renderle utili, come non renderle solo vuote, diciamo? Non so se si può parlare di un caso, ma oggi stesso c'è stata una presentazione dell'Eurobarometro che dice che 9 cittadini europei su 10 auspicano che si intervenga con urgenza per lottare contro la povertà. Ed è proprio di oggi. E allora, se si comincia a dare le diverse cifre, il 73% dei cittadini europei ritiene che la povertà è un fenomeno diffuso, eccetera, eccetera. Cioè, noi abbiamo circa 80 milioni di abitanti in Europa con il problema di povertà, cioè se non sono in una situazione di povertà sono a rischio di povertà, quando poi non si parla della grande, grande povertà che è la miseria di quelle persone che sono completamente abbandonate per strada, e ripeto, con una problematica che non è soltanto quella della povertà, ma spesso di una povertà assoluta, cioè povertà culturale, povertà fisica, con accenni e con situazioni di malattie, eccetera. Allora, il 2010 che cosa significa? Innanzitutto una grande sensibilizzazione che la povertà non è un fatto di fronte al quale bisogna arrendersi, qualcosa di un destino, una cosa di no, è qualcosa contro la quale si può fare prendere delle iniziative e soprattutto dei programmi. Perciò è un discorso politico, un discorso di cittadinanza e un discorso di individui. Io penso che se tutti e tre questi, chiamiamoli, attori intervengono, penso che si possa dare una risposta positiva a questo problema, e che poi E in fondo ci tocca tutti. Ma questi 9 cittadini su 10 che vorrebbero fare qualcosa per lottare contro questa povertà e contro l'esclusione sociale, a queste persone, alla società civile, alle ONG, cosa possiamo dire? Cosa si può fare in concreto? Anche per combattere degli stereotipi che soprattutto riguardano sia... Cioè io partirei da un punto fondamentale, che è il diritto. E perciò rivengo al discorso politico, perché innanzitutto è da lì che si deve partire, cioè non è che la responsabilità è della persona che in quel momento sta facendo politica, no, la politica nel senso un pochino più vasto. Se noi prendiamo la questione del diritto, e prendo la Carta Sociale Europea, che adesso i vostri diritti fondamentali dell'Unione Europea, prendo il primo, dignità umana, la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e protetta. L'articolo 2, diritto alla vita, tutte le persone, ogni persona ha diritto alla vita e nessuno può essere condannato, eccetera, eccetera. E integrità della persona, cioè dovremmo partire proprio al diritto della vita. Quando dico il diritto della vita, questo non è per tante di queste persone vivere, ma è un sopravvivere. E credo che quando si dice diritto alla vita, all'integrità della persona, significhi proprio questo, cioè ritrovare quel piacere di vivere che in buona parte di queste persone che vivono nella povertà estrema, che vivono per strada, non lo sentono più, il piacere di vivere. Allora, cosa si può fare? Innanzitutto, ripeto, a livello politico bisogna evitare quelle legislazioni che discriminano. Per esempio, si parla degli homeless. Ebbene, quanto delle legislazioni permettono di rigettare per strada tante persone? Cioè la legislazione abitativa, la legislazione sulla casa, quanto facilita le persone povere e quanto invece le rende ancora più discriminate. Accesso ai servizi. Quanto attenzione c'è nel permettere l'accesso ai servizi delle persone che non hanno capacità di farsi valere? Cioè, ritengo anche questo qui sia molto importante. Cioè, il diritto si può dichiarare, ma se non si permette l'accesso al diritto, se non si facilita l'accesso al diritto, il diritto resta una parola, una dichiarazione, ma non è usufruito dalle persone. No, e a livello di cittadinanza, cosa si fa? Anche se adesso prendo la questione della malattia mentale e dei malati mentali. Una delle cose più evidenti è la segregazione, cioè si cerca di metterli fuori della cittadinanza, fuori della comunità. In fondo la legislazione italiana in questo senso voleva essere positiva, cioè che si tratti la salute e la salute mentale nella comunità, piuttosto che escluderli in istituzioni. Allora, quello che dovrebbe essere, penso, un'attenzione particolare e della politica e del cittadino è di non segregare né la persona povera né la persona malata, e verso i poveri usare innanzitutto quella che è il principio della solidarietà, e verso le persone malate quello che è il principio della comunità, cioè la salute nella comunità e la solidarietà che permette una ridistribuzione del benessere anche agli altri. Un'ultima domanda, signor Leonori. L'Unione Europea, adesso abbiamo una nuova commissione, abbiamo un nuovo Parlamento e avremo a breve, si pensa, il Trattato di Lisbona. Nei prossimi 5 anni cosa vi aspettate a livello di normativa europea? Se io prendo la salute mentale, c'è stato... un patto per la salute mentale dopo il famoso libro verde, dove si diceva che la salute mentale non è una delle priorità dei governi. Ecco, io penso che la salute mentale sempre più dovrebbe divenire negli anni che vengono dovrebbe essere considerata una priorità, la salute mentale nel posto del lavoro, la salute mentale nella famiglia, la salute mentale nella scuola, in fondo è minacciata da una situazione sempre più grave di stress che porta anche a situazioni di depressione importanti. Perciò direi la salute mentale per me è un elemento molto importante che dovrebbe essere preso in considerazione. Io la ringrazio molto, signor Luigi Leonori, per la sua disponibilità. Ci auguriamo che il 2010, ecco perché è cominciato da lì, che il 2010 non sia soltanto un anno di dichiarazioni, di iniziative, ma sia soprattutto un anno di programmi, dove, mi permetto l'ultima cosa di dire, ci sono due tipi di popolazione oggi come oggi che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Sì, gli homeless e i malati mentali di cui abbiamo parlato, e i migranti. Ritengo che il 2010 dovrebbe essere un anno di molta attenzione non per le persone più fragili, più vulnerabili e anche per le persone diverse che non abbiamo mai avuto occasione forse di incontrare prima e che dovremmo conoscere meglio per poterle apprezzare. Grazie ancora Luigi Leonori per il suo intervento e agli ascoltatori di Onde Corte ci sentiamo la prossima settimana. Buonasera a tutti. Avete ascoltato Onde Corte. Un giro nell'Europa del sociale. I wanna be the minority.